Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Mio caro Francesco Tromba, con la puntata di oggi siamo arrivati ben a 182 numeri della nostra prova del suono, il sound check di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo e buonasera a Francesco Tromba. Buonasera a tutti. Mio caro Francesco, io la settimana scorsa ti ho nominato redattore per il sound check della musica d'autore italiana. Come è andato il lavoro questa settimana? Abbastanza bene, devo dire. Hai ascoltato un bel po' di pubblicazioni, sì, no? Perché sì. questa è la stagione dei nuovi album anche per il mercato italiano. Avrai notato che da settembre a oggi ne sono usciti almeno una cinquantina. Eh sì, si riparte dopo la pausa estiva. Dopo la pausa estiva. Sì, perché l'andamento delle pubblicazioni discografiche è stagionale, ci sono dei periodi. Gli album vengono pubblicati prima di Natale e poi a novembre vengono pubblicati gli album dedicati poi alle feste, al periodo natalizio, poi c'è una pausa. E sai perché c'è una pausa nel mercato italiano? Perché? Perché arriva il Festival di Sanremo, che mangia tutto, ecco, e quindi i dischi nuovi verranno pubblicati poi dopo il Festival di Sanremo, intorno a maggio, perlomeno per gli artisti che non partecipano al Festival. E a ridosso del Festival, quindi, ci sono le uscite discografiche di tutti i cantanti presenti lì a Sanremo. Ormai sapevi queste cose? Più o meno, sì. È un po' come la frutta di stagione, no? C'è un andamento annuale anche per la discografia nazionale, però ci sono tante pubblicazioni che arrivano dal mercato internazionale e tanta musica che noi seguiamo anche attraverso i nuovi siti, i nuovi portali di riferimento per la musica indipendente. Ne abbiamo parlato, Bandcamp e SoundCloud prima di tutti. Allora, veniamo allora alle produzioni più interessanti per quel che riguarda la musica d'autore italiana. Che cosa hai scelto per gli amici di Radio 24? Sì, allora, ho scelto innanzitutto Cristina Donà. Oh, bravissima Cristina Donà, mi è sempre piaciuta, bravissima cantante e anche una formidabile autrice, una piccola grande poetessa di canzoni. Sì, è un'incantautrice come la... Incantautrice, l'hanno definita così? Sì, esatto. Devo dire che dopo i suoi ultimi album non erano stati quelli con le major, con la EMI, non erano stati proprio bellissimi, diciamo. Ah, quindi è una piccola critica, sì, alla sì, tua. Sì, devo dire che... Lo stai non so dicendo se forse... direttamente a Cristina Donà. Gli ultimi sì. album non erano non stati erano belli. Piaciuti non particolarmente. Ti erano piaciuti, va bene. Ti assumi le tue responsabilità, sì. Però così vicini come va? Molto meglio, devo dire. Molto meglio, grazie a Dio. E che cosa hai scelto per presentare così vicini ai radioascoltatori di Radio 24? La canzone si chiama Perpendicolare. Perpendicolare, quindi si parla di matematica o di geometria? No, si parla di una storia d'amore. Di una storia d'amore, che è un tema così apprezzato dai cantautori italiani. Sì, siamo tutti fissati con l'amore. Con l'amore, però perché i cantautori italiani quando parlano d'amore raccontano sempre delle storie che nella maggior parte dei casi finiscono in tragedia o comunque sono strazianti? Evidentemente ci piace il melodrammatico. Il melodrammatico, è vero, il melodramma fa parte della nostra cultura musicale, no? Dei nostri argomenti preferiti. Si parla spesso d'amore, si parla spesso d'amore così, per soffrire, sì, per stare male. Si parla d'amore in tutte le opere. Quindi lo fa anche Cristina Donà con Perpendicolare o no? C'è una vena quasi ironica nella canzone? No. Assolutamente c'è. No, quindi andiamo proprio dritti al sodo, esplicito, perpendicolare, sì. Come nel cuore, come una lama. Sì, ho indovinato? Così. È bravissimo. Proprio così. Allora, Perpendicolare, brano scelto dal nostro Francesco Tromba per presentarvi così vicini, nuovo album di Cristina Donà, meravigliosa autrice italiana, qui al Soundcheck di Radio 24. È così che ti sento, perpendicolare al cuore. Conficcato nella carne, verticale amore. che ti sento perpendicolare a me, avvitato nelle ossa, forte nel restare. Sacro come una visione. Perpendicolare, il brano scelto dal nostro Francesco Tromba per presentarvi il nuovo album della bravissima Cristina Donà, così vicini qui al soundcheck di Radio 24, e un altro album che hai ascoltato per presentarlo ai nostri appassionati di musica è il nuovissimo di Sergio Camariere, al quale ho partecipato anch'io con un piccolo assolo di skate nel brano che ha anticipato questa pubblicazione. Sì, il nuovo album si intitola Mano nella mano. Mano nella mano. Ed è proprio la traccia che abbiamo scelto per è la prossima traccia, quindi il brano che ascoltiamo è proprio Mano nella mano. Allora, che mi dici di questo nuovo album di Sergio? Sì, se posso fare una critica. Ma perché devi fare la costruttiva? L'importante sì, è che sia costruttiva. Sempre costruttiva. Sergio, la critica sarà costruttiva, vediamo. Devo dire che nei primi lavori di Sergio Camariere si intuiva comunque sempre una vena ironica, c'era in ogni disco almeno 2-3 canzoni, comunque diverse canzoni in cui si intuiva questa sua ironia di sottofondo, sia musicalmente che nel testo. E poi che è successo? Camariere ha capito che per essere cantautore italiano doveva essere più malinconico. Sì, bisogna essere sempre melodrammatico. E quindi? E quindi anche i testi e le musiche sono diventate... Vabbè, comunque, Sergio, il disco io l'ho ascoltato avendoci anche partecipato, è veramente bello, cioè le melodie sono belle, è scritto bene, i testi di Kunstler sono fantastici, sì, sì, come sempre, una bellissima produzione. Credo che la distribuzione sia affidata alla Sony, quindi alla multinazionale. Sergio Camariere al soundcheck di Radio 24 con Mano nella mano. Proprio lì dove un giorno il mio cuore esiliato tornò, dopo aver provato dentro me ogni malinconia. Seguo il mio cammino ed ancora non so che sarà di me, di te, di tutti noi nel tempo. Soundcheck, il suono della musica. Mio caro Francesco Tromba, qui al Soundcheck di Radio 24, dopo aver presentato il nuovo album di Cristina Donà e il nostro amico Sergio Cammariere, di chi ci vuoi parlare? Che cosa possiamo ascoltare? Tosca. Tosca, la nostra Tiziana Donati, romana, bravissima cantante. Guarda, io credo che la voce di Tosca sia una delle più belle voci del nostro paese. Sono pienamente d'accordo. Meno male, finalmente non fai una critica. Il disco l'hai ascoltato? Sì, devo dire che è molto bello. Molto ben tutto realizzato, il disco sì. Suona molto bene, anche ispirato. Ci sono anche dei momenti di recitativo all'interno sì, della sì. produzione. È molto teatrale. E questo perché Tosca da un po' di tempo si diverte anche con il teatro, infatti in questi giorni dovrebbe essere in tournée. Non ho controllato, devo non ho controllare. No, te lo dico io perché me lo ha detto lei, quindi è in giro proprio con gli spettacoli e con i concerti e mi auguro che porti in giro anche tracce tratte da questo nuovo album che si intitola... Si intitola Il suono della voce. Il suono della voce, come il nostro programma è il suono della musica, quindi il suono della voce di Tosca lo presentiamo con quale composizione? Con Via Etnea. Via Etnea, che è una strada importantissima per chi vive e per chi frequenta la città di Catania. Sì, è una delle strade principali dove si possono anche degustare degli ottimi arancini. Di che cosa parla Via Etnea della cantante Tosca? Beh, non lo sai, vabbè, non te lo ricordo, adesso te lo faccio sentire io, è quasi un'interrogazione questa. Allora, Tosca con la sua bellissima voce presente al Soundcheck con Via Etnea. Questo è un brano estratto dal nuovo album di Tosca che si intitola... Il suono della voce. Il suono della voce. E c'è un'altra traccia molto interessante, visto che abbiamo ancora qualche minuto prima dell'informazione sulle strade, vediamo che cosa succede in Italia di sabato sulle nostre autostrade. C'è un brano, una versione swing di un successo di Adriano Celentano. Sì, di Prisen con in Encino in Ciuso. Ecco, vedi, e la pronuncia del brano te l'ho lasciata perché è veramente complicata. Prisen con in Encino in Ciuso. Vedi, sì. Per me che faccio schette è quasi più facile. Pronunciarlo. Ebbene, Tosca realizza questo brano famosissimo, un gramelò di finto inglese proposto da Adriano Celentano in chiavi R&B quando fu pubblicato questo album, ma vi stiamo parlando di quanti anni fa? Più di 30 anni fa probabilmente. Sì, molti. Bene, Tosca lo realizza in chiave swing. Vediamo che cosa succede qui al Soundcheck con Prison Calling and Not Chusel di Celentano per la voce della bellissima e bravissima Tosca. Praising, calling, ensign, and chusel. In the call may say one praising, calling, ensign, and chusel. All right. You're the same and choose not but the same and an older man in a colorful day. Trrr, chickies in mine begin to call, baby, say, yeah, push your O. Soundcheck. Il suono della musica. Vedi, mio caro Francesco, questa è una conferma. L'album di Jesse Boykins, americano nato a Chicago, poi ha vissuto a Miami, poi è andato a Brooklyn, lì a New York City, si intitola Love Apparatus. E come vedi, se il tema portante anche per questi artisti è l'amore, l'atmosfera musicale creata intorno alla tematica amore è assolutamente diversa da quella che invece ispira i nostri cantautori. Come mai? Sì, perché magari la vivono in maniera diversa. La meno melodrammatica. Esatto, eh? Si divertono di più. Si divertono, è drammatico e felice l'amore, non ci sono vie di mezzo. No. Esatto, Joy Boykins presente qui al Soundcheck con Plane e noi siamo in attesa di collegarci via Skype con un formidabile artista americano, direttamente connessi via Skype con il suo studio di Brooklyn a New York, con il bravissimo Leo Sidran. Producer discografico, compositore, diversi dischi al suo attivo come solista, ma anche come producer dei dischi del papà di Ben Sidran e anche di altri bravissimi musicisti della nuova generazione. Tra l'altro Leo Sidran ha anche portato a casa un bel Oscar alcuni anni fa, avendo partecipato alla produzione del brano Otro Lado del Rio, il brano scritto da Jorge Drexler, brano inserito nella colonna sonora dei Diari della motocicletta. Ricordi quel bellissimo film che raccontava la storia del Che Guevara giovane in giro per il Sud America in motocicletta, ricordi? Sì, ho anche letto il libro. Il libro, bello, no? Piccolo. Bene, e allora il nostro Leo Sidran sarà nostro ospite, tra l'altro ha realizzato da pochissimo un album nuovo intitolato Mucho Leo. Perché Mucho Leo? Perché se l'è suonata e se l'è cantata tutta in solitudine nel suo studio, ha suonato tutti gli strumenti, ha scritto i brani, li ha pubblicati, li ha prodotti e oggi è venuto fuori questo Mucho Leo. È il brano che noi vi vogliamo far ascoltare per anticipare questo appuntamento insieme a Leo Sidran fra pochissimo qui su Radio 24, subito dopo l'informazione delle 20. Il brano si intitola Why Can't I Have What I Want Today? Perché non posso avere quello che voglio oggi? Per quale motivo? Per quale motivo? Glielo chiederemo direttamente e ce lo dirà lui. Leo Sidran al Soundcheck, ci risentiamo dopo l'informazione delle 20. Soundcheck. Il suono della musica. Siamo pronti per dare il via alla seconda parte del Soundcheck di Radio 24. È puntuale come solo i newyorkesi sanno essere, mio caro Francesco Tromba, collegato con noi dal suo studio in New York City, esattamente da Brooklyn, Mr. Leo Sidran in person. Are you doing, Leo? Hey JJ, I'm great. I'm so happy to be talking to you. La cosa bella del chiacchierare con Leo è che io posso tranquillamente parlare in italiano, perché questo signore, nato a Madison, Wisconsin, ma residente a New York City, ha trascorso gran parte del suo tempo in Spagna e anche frequentando molti italiani, e fra questi anche chi vi sta parlando. Quindi se io parlo lentamente, tu capisci. I understand you. I think I understood everything you said. I hope I did. And I think you're right. My time in Spain is what helps me understand you. Esattamente. Quindi tutto il tempo che lui ha trascorso in Spagna lo aiuta anche a comprendere l'italiano. So, Leo, I'm very happy to see you. I'm very happy to talk to you. Felice di parlare con te per presentare questa nuova produzione che abbiamo già ascoltato al Soundcheck. We are talking about Mucho Leo. Mucho Leo, perché in questo disco Leo Sidran ha prodotto tutto, suonato tutti gli strumenti, insomma se l'è suonata e se l'è cantata. Why you produce this record totally alone in your studio? You know, man, I've been working on so much production for the last almost 10 years since I moved to New York, that when I was starting to make my own record, I was overwhelmed with possibilities. I couldn't decide which great drummer to call, which great bass player, and so I said, forget it, I'm just going to do everything myself. Ecco, quello che ha detto è che negli ultimi anni ha prodotto talmente tanta musica che a un certo punto aveva quasi l'imbarazzo della scelta. Quale grande musicista posso chiamare per suonare la batteria o il basso? E alla fine, per realizzare il disco, lo ha fatto tutto da solo. So now you are also a fantastic producer, e infatti è diventato col tempo anche il producer del papà. So now you produce your father's records. Yes, it's like the kung fu films where the student becomes the master, you know? I don't think I'm the master of my father, but it is a huge honor for me to get to produce my dad. Eh sì, è quello che succede quando si dice molto spesso che gli studenti diventano gli insegnanti, ma certamente lui non può insegnare niente al padre. Tell me about your one of your important the most important teacher for you. Talking about the groove, uno dei maestri più importanti per lui, perché Leo suona anche la batteria, è stato the original funky drummer Clyde Stubblefield. Tell me about Clyde. Chi era Clyde Stubblefield? Chi è Clyde Stubblefield? Well, Clyde Stubblefield is often called the world's most sampled drummer and the funky drummer because he played with James Brown in the 1960s. Ecco, e allora siccome lui suonava negli anni 60, Clyde Stubblefield con James Brown è diventato il batterista più campionato dai disc jockey. So, you produced a fantastic record for Clyde Stubblefield nel 2003, album intitolato The Original, e questa è proprio una composizione scritta da Leo Sidran e Clyde Stubblefield, The Original Funky Drummer, la voce è quella di Joy Dragland qui al Soundcheck di Radio 24. I'm the original funky drummer. Check out the original funky drummer. This is the original funky drummer. Check me out, y'all. Funky drummer. I am the original funky drummer. Check out the original funky drummer. This is the original funky drummer. Check me out, y'all. Funky drummer. Whenever me and Clyde go walking, we start talking about the way it used to be before machinery replaced a backbeat. Open wide, Clyde. I am the original. Soundcheck, il suono della musica. Some say that a woman she tells you that it's real, but here it's all backwards. It's what she doesn't tell you. Ancora in collegamento via Skype con Leo Sidran dal suo studio in Brooklyn, New York City, e questo era un brano che a me è sempre piaciuto, tratto da El Cid, un album pubblicato nel 2000. Il brano era 43 con Pigna. So, Leo, I'm very happy che sei qui al Soundcheck di Radio 24. Tu vieni da una città bellissima, una città universitaria importante negli Stati Uniti, una città con un grande fermento intellettuale come Madison. Ci sono tanti artisti, ci sono formidabili architetti, e infatti è la città di uno degli architetti più importanti del mondo. Di chi sto parlando? Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright. E io infatti con il tuo papà, one day, many years ago, we went to the Frank Lloyd Wright house, and was a fantastic experience. Siamo stati lì a casa di Frank Lloyd Wright, naturalmente l'architetto è scomparso molti anni fa, ma abbiamo suonato su un pianoforte dove le mani ce le aveva messe anche George Gershwin e il maestro Horowitz. Pensa che impressione. So tell me about your city, tell me about Madison. Adesso che vivi a New York, what do you think about Madison? You know, you really summed it up beautifully. It is if you arrive in Madison and you know nothing about it, you might think that it's just a regular, normal American city, because it has a lot of the same feeling of a large part of the middle of the United States. But There's something very special about Madison, and it surprises you. Ecco, allora quando vai a Madison pensi di trovarti in una città qualunque degli Stati Uniti, ma poi se la vivi capisci che c'è qualcosa di speciale, ti può sorprendere. So what kind of surprise? Well, the first thing is the mentality of the people. I mean, it's the same thing all over the world. There's something that you can't see until you go, and it's the kind of people and the way they think. They're progressive people. They're creative and intellectual people, like you say. It's not one of the biggest, most powerful cities in the country, but it actually is a city that creates a lot of ideas and a lot of important thought. Ecco, è una città dove c'è un grande fermento di idee, una città progressiva. Certo, non è una delle città più importanti da un punto di vista economico, ma da un punto di vista intellettuale, Madison ha senz'altro aiutato anche Leo Sidran, poi quando si è trasferito a New York per la sua carriera di producer. So was important for you the Madison experience for your career there in New York City? Absolutely. And I think that I'm very fortunate that I spent so much time doing my early work in Madison. And when I came to New York, you know, the expression in English is to pay your dues. I didn't have to pay my dues. I didn't suffer. I came to New York and I was able to work because I had spent so much time in Madison developing myself. Ecco, è stato così importante il momento di vita Madison, è stato così importante, è lì che ha appreso anche le leggi della musica e della produzione discografica, che poi quando si è trasferito a New York non ha dovuto pagare o soffrire quello che tutti vivono quando si trovano per la prima volta in una città così difficile come New York City. So now I want to play Joy and the Boy. Tell me about this project with Joy Dragland. Joy and I met at a jam session at the University of Wisconsin. She was still a student, and at the time she didn't even really see herself seriously as a singer. She didn't know if she was that great, but I heard her sing and I loved the way she sounded. This recording was made, I think, when she was 20 or 21 years old. And from the time I met her, she always sang Let's Get It On. And I loved the way she approached it. And so when we made our first record, Joy and the Boy, we recorded this song. Ecco, si sono incontrati proprio a Madison quando frequentavano l'università, lì nella loro città natale. E Joy Dragland neanche pensava di diventare un giorno una bravissima vocalist. Quindi hanno iniziato a lavorare insieme, fino a produrre diversi album, e da uno di questi album bellissimi intitolato Paradise del 2001 ascoltiamo Let's Get It On, questa è la loro versione di un successo di Marvin Gaye qui al Soundcheck di Radio 24 con ospite Leo Sidran da New York. I've been really trying, baby, to hold back this feeling so long. And if you feel like I feel, sugar, come on, woo, come on. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Ed è stato proprio durante il suo periodo spagnolo che ha conosciuto tanti artisti e fra questi anche un songwriter autoctono, ovvero Jorge Drexler, con il quale poi ha iniziato a collaborare e per il quale ha prodotto questa canzone che abbiamo ascoltato qui al Soundcheck di Radio 24, Al Otro Lado del Rio, una canzone molto importante sia per Jorge Drexler ma anche per Leo Sidran. Why so important this song, my brother? This was the song that won an Oscar, an Academy Award, in 2005. It was the first song in Spanish ever to win that award. So it was a very historic moment for Jorge Drexler and for me. Ecco, un momento storico perché con questa composizione hanno vinto l'Oscar per la musica nel 2005 e quindi un momento significativo per le loro carriere. Tra l'altro la prima composizione in lingua spagnola a vincere lì durante la celebrazione degli Oscar. So Leo, so what you doing now? Che cosa stai facendo adesso? I know that you are so busy doing music but also producing commercial. Yes. When I right after the song in 2005 won the Oscar, I got in a truck with my girlfriend, who's now my wife, and we drove to New York. We ecco, didn't know why. We just knew we had to go to New York. So just let me translate. Quindi dopo aver scritto la canzone e aver avuto il successo agli Oscar, decide di prendere il van, di caricare la famiglia in macchina e di trasferirsi a New York. But we didn't know what we would find. So what I discovered was there was a lot of opportunity to produce records, but we all know that records, maybe it's hard to survive only producing records. Ecco, sapeva che poteva produrre musica, ma sapeva anche che vivere o sopravvivere con la musica non è così facile. To live with the music is possible, but not only with the records. And what I discovered was to write music for commercials and for film is a way that you can survive. And I really enjoy it. Ecco, si può sopravvivere con la musica, ma certamente non soltanto di discografia, per cui ha pensato bene, oltre al fatto di fare i concerti e tanti gigs in giro per il mondo, di produrre musica per alcune delle più importanti multinazionali americane, e oggi lo fa. So tell me a few names. Oh man, I've been doing it so long now, it's like I can't believe it when I say it. Coca-Cola, Nike, American Express, all of the banks, McDonald's, everything. Ecco, e infatti proprio per questo motivo, dopo aver prodotto tanta musica per questi marchi così importanti, ha lasciato lo studio associato con il quale collaborava per creare il suo studio personale lì a Brooklyn. So now you are the owner of your personal studio in your own place. Yeah, man. And but you know, JJ, you remember when I grew up, I had a small studio in my family house, and I still work that same way. I work the way I worked when I was growing up and learning how to make records. Eh sì, mi ricordo infatti quando era ragazzino che lavoravo con il papà lì a Madison, Wisconsin, che Leo tornava dalla scuola e si chiudeva nel suo studio a fare musica e praticamente è tornato adesso che ha 38 anni suonati a fare la stessa roba. Ha lo studio a casa pieno di strumenti ed è lì che produce tutto il suo materiale artistico. Perché non ci presenti Nick's Bump del 2004, una produzione per Ben Sidran, il brano è Black Jack di Donald Byrd. You want to introduce it? Yeah, man, this is from Nick's Bump, my father Ben Sidran's 2004 record. This was originally a Donald Byrd track and they let me put a little bit of a new funky twist on it. It was such a pleasure to make this record. One musician brings on another. And what we do is I meet him, and the musicians talk about him, and I get to hear them, and you hear the potentials. A lot of musicians I hear, I like to have in the band, but they won't fit. They won't fit. Their personalities, they won't fit. And then the sound, then the band begins to come together. And then the band begins to come together. In a matter of a few months, playing together every night, we begin to know each other, begin to trust each other. The band begins to come together. And then the sound begins to come together. Soundcheck. Il suono della musica. Titola Mucho Lio, il nuovissimo album scritto, prodotto, arrangiato, suonato e cantato dal nostro ospite, da Leo Sidran, e questo brano splendido After the Damage is Done che troverete proprio in Mucho Lio, sicuramente un album che potete scaricare da iTunes. Non troverete una versione fisica probabilmente nelle prossime settimane in Italia, perché questa è quasi un'anteprima. Leo Sidran, nostro ospite. So Leo, thank you very much. Grazie per essere stato con noi. Tell me about your activity for the future. Oh, well, first of all, thank you so much, JJ. It's such a pleasure to get to talk to you. You know, you were one of my big influences when I was learning to play. So. No, thank you. Cioè, hai capito, Francesco, che sono stato una delle sue influenze. Vabbè, lasciamo perdere, vai. Tell me. So now let's see. For the month of November, I'm going to be on tour with Ben Sidran presenting this new record that he has called Blue Camus. We're going to be in France and Spain, as always. Also, we're going to spend a little time in Denmark and in Holland playing gigs. Mm-hmm. Then we come back in December and play some gigs in New York. And then I play some gigs also in New York with a band that I put together to play the music from Mucho Leo. Eh sì, un sacco di concerti con il padre, tutto novembre saranno in Europa per concerti in Francia, in Spagna, poi torneranno per concerti a New York, insomma un'attività infinita per questo meraviglioso musicista che io considero come il papà un intellettuale della musica. So I consider you a sort of an intellectual musician, man. Man, I think it's true. I try to be as natural as I can, but there's always a bigger idea above the music that leads me. And I think I learned that from my father. Yeah, allora, hai imparato infatti questa lezione proprio dal padre. E infatti il papà è un formidabile autore di saggi dedicati al jazz e in questo momento lui è anche impegnato con un blog che sta andando molto bene. So as your father, you like to write and now you're writing a great blog. Yeah, thank you, man. I started to think that it was maybe a good chance for me to continue that tradition that my father started. For a long time, I didn't want to do that because I thought, no, I'm not my father, I'm myself. But now I live in New York. I'm surrounded by some of the greatest musicians and artists in the world, and I want to talk to them. So I speak to them and interview them from my blog. Sì, non pensava di emulare il padre, però alla fine si è ritrovato a New York e siccome gli piace frequentare l'ambiente artistico e i musicisti, ha pensato perché non intervistare alcuni fra i miei musicisti preferiti e quindi potrete trovare via internet il blog di Leo Sidran. Tell me the name of the blog, Leo. It's called thethirdstory.com, but there's a dash, third-story.com, because I do it on the third story of my house, mm-hmm. And it's also the third story, the story you didn't hear before. Allora, le storie che voi non avete mai ascoltato, la terza storia, the third story, questo è il nome del blog che potrete trovare in internet e presente anche in iTunes. Grazie a Leo Sidran, formidabile musicista, eccellente producer, e infatti per questo ha anche prodotto l'ultimo album del papà di Ben Sidran che si intitola Blue Camus, col quale noi vi salutiamo. Il brano è splendido. Now I want to play an incredible composition by your father, Wake Me When It's Over. Tell me the story about this song. Raccontami la storia di questa canzone. You know, this record overall was unusual for my dad. It was started out as a jam, bunch of jam sessions in the studio where Ben and Billy Peterson and myself and Ricky Peterson. Sì, il disco è iniziato come una jam session insieme ai fratelli Peterson di Minneapolis, un'altra famiglia incredibile di musicisti. We started to invent little ideas. We recorded them, and then Ben went home and he listened to it and created a kind of poetry on top of the jam sessions. And so this song is both a composition and an improvisation. Ecco, l'album è nato come una jam session, sono state registrate le tracce e poi dopo il papà ha scritto i testi quasi come delle poesie spontanee. E così anche Wake Me When It's Over ha questo concept dove c'è una sorta di improvvisazione vocale con una melodia comunque bellissima e armonicamente Ben Sidran non è mai banale. Grazie a Leo Sidran, thank you very much per essere stato con noi, Leo. Thank you so much, JJ. Allora, noi ci risentiamo il prossimo weekend, termina qui, no, ci risentiamo domani, giusto, ci risentiamo domani alle 15:30 per il soundcheck versione pomeridiana e poi naturalmente una seconda parte più jazz. Grazie a tutti voi da JJ Telesforo, da Francesco Tromba e da Leo Sidran. Thank you, Leo. Grazie. Wake me when it's over. Tell me when it's real. Shake me when we get there. When they finally do.